Amanti del virtuosismo del progressive metal americano, sapevate come si chiamavano in origine i Dream Theater? Forse come ipotizzato nella soluzione A, Majesty, maestosi. Beh, potrebbe essere, anzi, io direi che è proprio così. La risposta esatta! Segnaliamo che il nome fu scelto in seguito a un commento di Pornoi sulla traccia Best Steel Days dei Rush, definita dal batterista di Dream Theater maestosa. Dovettero poi cambiare il nome per motivi di copyright, perché esisteva già un gruppo jazz californiano che si chiamava per l'appunto Majesty. Non si sono mai chiamati The Pedrucci Project, tantomeno Progressive Dream. Bravi se lo sapevate, restate con noi se non lo sapevate. E in tutti i casi rimanete in contatto. Se oggi non avete indovinato, se non la sapevate, potrete rifarvi al prossimo quiz. La patente da vero rocker, prima o poi, sarà vostra. La patente da autentico rocker vi aspetta. Non ci sono interferenze, caro Manolo 122, sono io che ho il mal di pancia. Buongiorno dall'Ariele, colazione di pane, burro e rock and roll. alle 8:35 minuti primi in diretta. A voi che avete appena acceso la radio, buona giornata, buon lunedì, buona settimana, buon 14 gennaio 2008, l'anno della svolta. Una puntata particolare quella di oggi, dove soprattutto ci stiamo un po' complimentando con i neopatentati toscani che hanno preso il loro tesserino e ne sono decisamente orgogliosi. Velocemente vediamo di salutare anche il 643 da Firenze, che propone come sigla per l'appuntamento dei musicisti rock con la bocca il brano Si può fare della PFM come sigla o come inno. Ottima idea, ma abbiamo bisogno di nuovi provinanti, ragazzi. 3351007777, non siate timidi e iscrivetevi al provino per diventare musicista rock con la bocca. Basta scrivere musicista rock con la bocca, sì. È molto semplice. E poi si prosegue. Sapete che mi piace un sacco questa nuova canzone di Paul McCartney, nuova ormai già da qualche mesetto. Intitola Dance the Night, il ritorno del bassista dei Fab Four. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Ehi, frigo! Smettila di dormire, dai! Tienimi compagnia, sei mio solo amico! Io qui mi sto annoiando! Ma io non sto dormendo, rogna! Ah, no? Dai, frigo! Frigo! E che c'è? Dimmi, rogna, che c'è? Dai, stai sveglio, raccontami qualcosa! Ho anche una barzelletta, dai, che palle, mi annoio! Ok! Dai, frigo! Smettila di dormire, frigo! Ma guarda, rogna, che io non sto mica dormendo! Frigo, te lo dico adesso che tanto non m'ascolti. Da quando sei diventato narcolettico, non ti sopporto più! Quasi quasi ti spingo fuori dalla gabbia. Frigo, non ti sopporto! L'attimo, si vive la diretta sulle frequenze di Rock FM. Bisogna cogliere l'attimo, certo, carpe diem. Sì. Grandi citazioni a pane grandi, puro rock and roll. A proposito di carpe, sì. Carpisco, eccolo. Carpisco. Eccolo, ha capito anche lei il suono? Esatto. Questo è il campanello, ormai lo riconosco. Spadino, ho anche paura di capire chi è il portinaio, Peretti. Portinaio? O portiere. Guarda, Frick, io lo chiamo portinaio, sai? Ma è venuto portiere. Su? È qua? E fallo entrare. Ecco, oh, buondì, signor Peretti. Buongiorno, scusate ancora. Ma si figuri, Peretti, lei qui è a casa. Sono in benvenuto. Stavamo pensando di fare una rubrica solo su di lei, sa? Ah, no, ma qui in televisione, ma no, alla radio. Radio. Oh, ma tra l'altro voi siete di una bravura. Grazie, ma ci ascolta. Vi ho visto ieri sera in televisione, ma siete uno alla più radio. Bravo dell'altro. Siamo alla radio, grazie. Sì, noi ci sentiamo invece di ringraziare lei, perché è grazie al suo lavoro e grazie a persone come lei che il nostro lavoro può riuscire bene. Esatto, il suo mestiere è all'apparenza così umile eppure indispensabile. Sa come la chiamano? Il CC del condominio. Sì, la colonna del condominio. Sì. Io un ingresso così pulito non l'ho mai visto, signor Peretti, che lo sappia la gente. Siete veramente di una si figuri. Sono imbarazzato. E mi scusi, signor, ancora per quella cosa dell'autoradio dell'altro giorno. No, eh? Ma già dimenticata. Già dimenticata. L'ho tolta l'autoradio dalla macchina. Ma ha fatto male, ma l'importante è tenerla con un volume decoroso. A proposito di decoro. Sì. Ho scoperto che questa mattina ci sono delle impronte sul vetro del palazzo, l'ingresso del palazzo. Ma com'è possibile? Delle impronte, strano. Perché c'è la maniglia, sì. C'è la maniglia e tutti usano la maniglia. Sì. Qualcuno invece spinge con le dita il palmo della mano e che lascia il sul segnetto. Il segno. Ma chi sarà stato? Sporca il vetro. Purtroppo che cancello. Non si può scoprire chi è, non siamo mica l'FBI che scopriamo chi ha aperto certo la porta. Che si può scoprire chi è, ho fatto le indagini. Ah, sì? E ho scoperto che l'impronta corrisponde perfettamente a quella del dottor Antoni. Ma come fa a saperlo? Ma lei come fa a sapere che l'impronta Peretti, digitale come fa del dottor Antoni? C'ho la banca dati, c'ho tutto il database e ho fatto un raffronto e risulta che sono ma proprio... Ma lei, mi scusi, ha le impronte digitali di noi della radio? Di tutto il palazzo, ma ho anche tutti i campioni di DNA, posso risalire a chiunque voglia, ma tre generazioni prima. Lei prende un filo sul ma Peretti, lo sai che forse non è legale quello... Tra l'altro. Ma, io comunque ho fatto le mie indagini e devo dire al signor Frick Anthony che se la prossima volta fa queste cose... Ti strappo le dita, le uso come ombrellini nel cocktail, hai capito, faccia di culo? Scusate ancora, arrivederci. Per carità. Arrivederci, portiere, arrivederci. Lei è sempre il benvenuto. Maestro, ma anche lei la porta, la prenda dalla maniglia, che la spinge. Ma non ci ho fatto caso, non ricordo, sarò stato sopra pensiero. Ma questo è un portiere o un portinaio? No, portinaio secondo me, portinaio Peretti. Portinaio o portiere Peretti, ma... Se no Frick, bello cosa può strano, fare? Potrebbe mettersi dei guanti. ma li metterò sicuramente. Perché questo ci controlla, eh. Questo è inquietante, ma ha visto la trasformazione? Sembrava un gorilla. Quasi. Un gorilla quadrumano. Sì. Un gorilla, mezzo uomo e mezzo gorilla, con il pelo. Ha visto il pelo che gli usciva? Dal petto, sì. Sì, sì. Una cosa impressionante. Lasciamo stare, perché non ci pensiamo che è meglio. Vi amerò tutta la notte. Inquietante. Buongiorno dall'Ariele. Sempre un filo imbarazzato, devo confessarlo. Quando penso tra me e me, immaginati quello lì che ha acceso la radio oggi, mai sentito parlare di pane, burro e rock and roll, si trova di fronte alla trasmissione così, no? È un po' che è spiazzante la cosa. Soprattutto quando devo salutare un vecchio inviato di pane, burro e rock and roll, che dall'inizio del 2008, l'anno della svolta, a oggi non avevamo ancora sentito. Per salutarlo ricordo a chiunque non avesse mai ascoltato questa trasmissione radiofonica che, seguendo il motto "la nicchia vincerà", abbiamo lanciato la sfida agli ascolti a tutte le altre radio. Seguendo questa logica abbiamo deciso di giocare sporco. Per giocare sporco alla radio abbiamo deciso di far vedere uomini nudi e donne nude. Per gli uomini nudi abbiamo Rosy, che è un altro discorso. Per le donne nude abbiamo scelto un vero camionista. Yuri da Ravenna, bentornato! Ah, Buon 2008, l'anno della svolta. Altrettanto a tutti. Allora, prima di tutto ti devo tirare le orecchie, perché hai sentito nella puntata di oggi quanti nuovi patentati abbiamo? È vero. Yuri, hai la tua patente da vero rocker? No. No. No. Però perché eri lavorante? Ero lavorante, esatto. Dicevo in fuori onda che in tanti, dalle tue zone, scrivevano: ma viene anche Yuri, che magari carichiamo il camion di birra, proponendo. Magari. Magari. Sì, perché porta tutt'altre cose. Va bene. Ma occupiamoci del tuo vero, del tuo campo. Allora, il nostro Yuri ci fa vedere le donne nude, anche perché abbiamo scoperto, stupidi noi che non lo sapevamo, che per i camionisti c'è uno smercio, uno smazzo di calendari softcore tutto particolare, no? Arrivano dai garage. Come officine, sì. Com'è l'annata 2008? L'annata 2008 è alquanto hard. Ne ho visti quando è stato? Sì, l'inizio dell'anno, la settimana che sono tornato delle ferie, subito dopo la Befana, il martedì e il mercoledì, no, il 9, il 10. Sono andato in officina, c'era... guardate, ho detto, ma quest'anno sono sbizzarriti, è una cosa veramente, molto spinta. Mi piace sottolineare come la forma mentis del nostro Yuri, da quando è diventato nostro inviato, è cambiata. Perché sono certo che fino a qualche anno fa li avrebbe guardati pensando a dell'altro. Adesso quando li vedi so che tu pensi, beh, però per pane, burro e rock'n'roll è troppo. Esatto, bravo, devo cercare qualcosa di più morbido. Che per quanto si possa solo sentire e non vedere, però se è troppo duro è troppo duro, diciamo. No, c'è proprio roba aperta, molto aperta. Molto diciamo. Aperta, quindi... perché anche noi abbiamo un codice di autoregolamentazione, no? Quindi esatto. Sono sempre le 8:50 del mattino, quindi no. Però mi accennavi in fuori onda che tra i tanti ce n'era uno un po' toscoromagnolo. Sì, ce n'era, ne avevo trovato uno proprio in onore della serata, visto che anche molte persone della mia terra arrivavano, devono arrivare a Firenze. Sì. Ce n'era uno molto con la location molto toscoromagnola. Diciamo. Perdonami, com'è la location toscoromagnola? Beh, la location era una sala da pranzo, stile rustico, con un bel fiasco di vino vecchio stile, bicchieri di vetro proprio delle osterie. La tovaglia a quadri? No, niente tovaglia, tavola proprio di legno, proprio con l'omassello, legno scuro, col suo bel fiaschetto e 2-3 bicchieri di vino. Senti, perdonami, riusciva il calendario a mantenere l'atmosfera toscoromagnola per tutte e 12 le mensilità? No, solo quella lì. Solo quella lì. Il resto era il dramma. C'era solo quella lì. Però, guarda, sono in imbarazzo perché non so se affrontare quella lì o fare una panoramica generica su tutti quelli che hai preso. Beh, quella lì è radiofonica. Allora iniziamo bene l'anno, dai Yuri. Iniziamo radiofonica. È il mese di? È il mese di febbraio prossimo. Di che gara, di che? Di una ditta di elettricisti, fanno il trauto per il camion, così. Esatto. Salutiamo anche le ditte che ci forniscono questi calendari. Vabbè, ci sono elettrauto, carrozzerie, tutti i pezzi di ricambio. Così. Yuri, alza l'ascolto grazie alle donne nude o la donna nuda? Una ragazza mora. Oh, una bella mora, bene. A sedere sulla sedia, di fianco al tavolo, che impugna il bicchiere di vino con la mano destra. E con l'altra? Aspetta, dai, ci arrivo. Allora, la ragazza è mora ed è vestita di reggiseno e mutande bianche. Vedi, soft. Però aspetta, il reggiseno è calato sulle spalle e fa vedere il seno. Bello. Seno è ricordo una seconda scarsa. Esatto, ricordo che Yuri è preciso, seconda scarsa, vera o falsa? Vera. Ho capito. Se fosse sarebbe proprio una contraddizione. Ho capito. E con l'altra mano, con il pollice dentro le mutande. Il pollice dentro, mi chiedo tanto perché. Sì, ho capito. Abbassa le mutande. Di un filì. Poco. E si fa vedere. Si fa vedere. Yuri, è stato un piacere ritrovarti anche in questo 2008, l'anno anche della svolta. Ci risentiremo con calma. Tu continua a selezionarceli così, insomma, che si possano sentire. Io quando trovo qualcosa io seleziono e metto da parte. Tieni lì. Un abbraccio. Dove sei in questo momento? Sono a Voltana. Voltana, va bene. Sì, vicino a Lugo. Buon proseguimento e salutami Lugo, la città della svolta. Ciao bene. Yuri. Ciao. Dream On! Stavo facendola solo con la bocca. Anche tu puoi diventare un musicista rock con la bocca. Iscriviti al 335-100-7777. Musica con la bocca, sì! Allora, è finita la trasmissione, è andata. Velocemente, gli ultimi patentati nuovi, 785, Prada Firenze, il primo pensiero della mattina è stato a confessarcelo. 1091, patentato 853, ancora patentati 1026, 1027, 1028 da Firenze. Bentornati su Pane Pure Rock and Roll. Serpa, patentato 701. Ne mancano 35 alla 666, ora che si è messo male. Un minuto alle 9, come giusto che sia, lanciamo la nostra sigla, dai! Si risente domani dalle 7 alle 9 del mattino con quella che sarà la puntata 161. Dall'Ariele, Spadino, Fricca, domani! Pane, burro e rock and roll. Belli precisi. La tua colazione roll. Per chi fosse interessato invece alla puntata di oggi, burro e rock and roll. RadioRockFM.com in streaming, ci ritrovate là. Tracu, tracu. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Come ogni giorno siamo pronti a passare il testimone a Marco Garavelli, buona giornata. Buona giornata anche a te, prontissimi direi. Com'è andato il weekend? Bene, relax, bene. Riposo. Tutto tranquillo? Sì, sì. Spadino avrebbe una sorpresa da farti. Non mi dire. Sì. C'è la sigla? Sì, dobbiamo ringraziare Rosy, la nostra radioascoltatrice che ci ha dato una piccola mano. Dai, però l'impegno, insomma. Perfetto, vado? Vai, vai, prego. Lunedì 14 gennaio, previsioni meteo Lombardia. Bravo. Condizioni di nuvolosità irregolare in intensificazione durante la serata, quando sono attese precipitazioni sparse ad iniziare dai settori settentrionali ed occidentali. Attenzione, neve sulla fascia montuosa alpina e prealpina con quote superiori agli 800 metri, ma per te localmente poco al di sotto del Varesotto. Ah, era segnato proprio. E Varesotto. Quindi sotto Varesotto nevica? Poco. Sì. Va bene, allora vado a preparare la pala per. Io poco parcheggio poco, dai. Poco poco, allora. Sì. Vi lascio con Garavelli fino al mezzodì. A ciao. Domani. Ciao.